Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo pronti, eccoci prontissimi qui dal Groove Master Studio per un'altra puntata del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Questa è la puntata numero 194. Grazie a tutti gli amici che continuano a scrivere email per sostenere la nostra rubrica lì all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Lasciatemi anche ringraziare l'amico Roberto Ramberti di Groove Master Edition, perché puntualmente durante la messa in onda del nostro programma pubblica nelle pagine del sito groovemasteredition.it tutti i brani in airplay oggi e probabilmente anche quelli della puntata di domani, come sempre la domenica, doppio appuntamento. Ma veniamo a noi, veniamo alla puntata di oggi. Subito dopo l'informazione delle ore 20 ci collegheremo con Houston in Texas per incontrare via Skype il producer della nuova generazione americana, Ahmed Sirur, che ultimamente abbiamo presentato suonando qui al Soundcheck alcuni dei suoi remix meravigliosi. Ha riproposto le sue versioni di I Wish di Stevie Wonder o di Golden di Jill Scott, quindi un musicista e un produttore della nuova generazione che ci racconterà come funziona il suo lavoro e come mai un musicista così bravo preferisce appoggiarsi su piattaforme come Bandcamp e SoundCloud piuttosto che firmare contratti discografici con una bella etichetta internazionale. Ma veniamo alla musica di oggi. Oggi vorrei dare il via alla puntata presentandovi due produzioni discografiche italiane, non in lingua italiana, ma due produzioni che strizzano l'occhio al mercato internazionale, giustamente. Il primo musicista, il primo artista del quale vi vorrei parlare è il mio amico, il meraviglioso batterista Alfredo Golino, napoletano di nascita, figlio d'arte. Suo papà Antonio è stato un meraviglioso batterista e un incredibile insegnante di musica, purtroppo scomparso pochi mesi fa, dal quale il giovane Alfredo ha preso i rudimenti dello strumento, cosa che gli ha permesso addirittura già all'età di 17 anni di esibirsi nella base della NATO di Napoli accompagnando gli artisti americani in visita in Italia. Prestissimo, a 18 anni, entra a far parte della prestigiosa orchestra della RAI lì a Napoli, per poi trasferirsi a Milano sempre con un bel contratto come musicista per l'orchestra della RAI di Milano, e poi ha fatto la sua carriera lavorando per i grandi artisti della musica leggera italiana, le lunghe tournée internazionali e le produzioni discografiche che so per Eros Ramazzotti, ma anche una bellissima collaborazione, una splendida e sincera amicizia con Mina. Insomma, Alfredo Golino è un musicista versatile, completo, senza problemi, suona jazz, funk, R&B, fusion e tutto quello che gli va e che gli passa sotto e sopra i suoi tamburi. Eccolo qui, arriva finalmente con un disco a suo nome, tanto atteso, però la cosa lo sta premiando perché già da qualche settimana è nelle prime posizioni della classifica jazz di iTunes. L'album si intitola Just Play Life e quindi in questo modo Alfredo suona la sua vita e la sua carriera chiudendosi in studio di registrazione con meravigliosi musicisti. Andiamo dai pianisti Danilo Rea, Rita Marco Tulli, fino a una serie di bassisti formidabili, Dario De Ida, addirittura Pino Palladino, Cesare Chiodo, ma poi anche la partecipazione di bellissime voci come Giulia Fasolino, che tra l'altro è la moglie di Alfredo, la bravissima Betty Vittori, c'è anche il mio amico Nick the Nightfly, il sassofonista Stefano Cantini e poi un piccolo cameo di Mina in un brano molto divertente. Ma vorrei presentarvi Just Play Life di Alfredo Golino con la chitarra bellissima di Maurizio Fiordiliso, eccellente musicista italiano, anche coautore della maggior parte dei brani, e la voce di questa bravissima cantante italiana, si chiama Chiara Marzorali, questa la versione vocale di Delicious per Just Play Life, Alfredo Golino qui al Soundcheck di Radio 24. Beh, intanto mi voglio scusare perché ho pronunciato male il nome della vocalist, Chiara Marzaroli. Ecco, per tenere il ritmo a volte ci confondiamo. E questo l'album di Alfredo Golino, si intitola Just Play Life, la chitarra di Maurizio Fiordiliso, un bellissimo album, vi consiglio di acquistarlo, magari anche un bel regalo per le prossime feste di Natale, per sostenere le produzioni italiane. Tra l'altro questo è un album prodotto dai bravissimi fratelli Nicolosi. Altra produzione italiana che strizza l'occhio al mercato internazionale vede come protagonista un altro bravissimo chitarrista, lo abbiamo anche avuto ospite nella passata stagione del Soundcheck qui su Radio 24, chitarrista romano Piero Masciarelli, uno dei chitarristi più funk presenti nel nostro paese. Album nuovo per lui intitolato Bebop Dance, anche lui si circonda di bravissimi musicisti, il fedelissimo batterista Marcello Surace, groove master d'eccezione, anche se calabrese ha nelle vene un sangue tipicamente afroamericano, e Carlos Sarmiento, e questo brano intitolato The Bridge per presentare questa nuova produzione di Piero Masciarelli vede la partecipazione della bravissima vocalist Romina Johnson, residente a Londra ma per tanti anni ha vissuto in Italia e quindi ogni tanto torna a trovarci, e proprio per partecipare anche a produzioni discografiche come quella di Piero Masciarelli, molto ben realizzata, ben costruita, dal piglio assolutamente internazionale. Il brano si intitola The Bridge, Piero Masciarelli al Soundcheck di Radio 24. Quite a long, you got me waiting. I've been sitting here just thinking, where are we going to, baby? You've got me tripping, yeah. Soundcheck, il suono della musica. Sì, da non perdere questo album intitolato Flint con protagonista il pianista Bill Lawrence, il brano, una sua composizione intitolata Never Ending City, brano realizzato con la complicità del bassista Michael League, leader degli Snarky Puppy, band che abbiamo molto apprezzato qui al Soundcheck, band nella quale milita anche il pianista Bill Lawrence. Ecco, l'impianto di questo disco è quello tipico del trio, con batteria in evidenza suonata da un animale fra virgolette, e lo dico anche con la stima e l'affetto per un grande musicista come Robert C. Wright, Michael League come dicevo al basso e contrabbasso, Bill Lawrence che invece si diverte con il pianoforte e anche tutta una serie di tastiere vintage e digitali, e poi in molti brani anche la partecipazione di un bello organico di archi. Un album che tra l'altro è presente anche su YouTube, e infatti via internet potrete seguire anche le immagini che sono state realizzate in studio durante la lavorazione di questa produzione. Si intitola Flint, l'album di Bill Lawrence, e dal pianista americano Bill Lawrence, che ha studiato musica classica, a un altro trio che mette insieme vari elementi sonori, quello inglese giovanissimo che si firma Gogo Penguin. Ecco, questo è un trio da tenere d'occhio, una band che si è formata a Manchester con il pianista Chris Illingworth, il bassista Nick Blacker e il batterista Rob Turner. Giovanissimi questi ragazzi inglesi che però si sono fatti notare subito pur avendo realizzato soltanto due album. L'album nuovo, che ha soltanto due mesi di vita, si intitola V2.0 e è anche un album che viene nominato per ricevere forse il premio come album dell'anno lì in Inghilterra nella consegna dei Mercury Prize. Ecco, ci sono vari elementi che contraddistinguono il suono dei Gogo Penguin, ovvero grande senso del groove, intanto tutto Il tutto è stato suonato e realizzato acusticamente in studio, pianoforte, contrabbasso e batteria con vari elementi. Certamente la forma e la struttura tipica del jazz, improvvisazione, ma soprattutto un piglio ritmico interessante, moderno, contemporaneo, che mette insieme elementi che spaziano, come dicevo, dal jazz al trip hop, al groove, all'R&B, c'è qualcosa di elettronica e ci sono anche elementi di musica classica che scaturiscono proprio dal background musicale e artistico del pianista Chris Illingworth. Ecco, questo tanto per presentarvi il sound dei Go Go Penguin, da questo album recente, lo ripeto, intitolato V2.0. Il brano che vi presento, per farvi capire di cosa stiamo parlando, si intitola Kamaloka. Go Go Penguin al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. I'm living, I'm having blood vision. I wonder if you could envision it. Sometimes you just need an escape. I understand, that's why you had to fly away. Spin, I'm living, I'm having blood on blood vision. I know that's why I had to live. E questo è il suono di una nuova proposta del soundcheck di Radio 24. È un duo inglese che va in giro sotto il nome di SBTRKT, una sigla praticamente, quasi l'inizio di un codice fiscale, ma il tutto viene pronunciato come Subtract. E Subtract poi alla fine non è altro che il nome d'arte di Aaron Jerome, musicista, produttore, discografico inglese della nuova generazione, che ha iniziato la sua carriera come disc jockey nei club londinesi. In modo particolare si esibiva e forse si esibisce ancora oggi al Plastic People di Londra, dove si è fatto apprezzare per i suoi remix live di brani tratti dal repertorio di band accreditate come Radiohead, Mark Ronson, Underworld e Goldie. E a un certo punto il signor Aaron Jerome ha sentito l'esigenza di misurarsi anche con la sua personale creatività, con la composizione, e quindi mette su questo organico chiamato Subtract insieme al suo fedele compagno da armi Sanfa. Ecco, Sanfa e Subtract, pensate con quali nomi vanno in giro questi ragazzi. Fatto sta che comunque quando si esibiscono lì a Londra fanno sempre il pienone, giustamente. Il sound è molto particolare, molto elettronico, dal vivo utilizzano batterie elettroniche ma anche batterie acustiche, un mare di tastiere e di campionatori che servono poi a Sanfa, che è anche il vocalist della band, per creare con l'harmonizer un effetto corale assolutamente improvvisato e realizzato al momento lì durante le performance. Ecco, Subtract, ovvero Aaron Jerome, è un alias, ecco, che viene usato per evidenziare il suo anonimato. Infatti in una recente intervista ha affermato che non vuole parlare di sé come persona, ma lasciare che la musica parli per lui. E per enfatizzare l'anonimato si esibisce dal vivo indossando una maschera primitiva, un po' come fanno anche altri artisti. Ho visto per esempio a Ballando con le Stelle che c'è un ballerino, se possiamo chiamarlo ballerino, un judoka o karateka, o comunque un uomo dotato di una muscolatura possente, che si chiama Masca, credo. Comunque